Oggi vorrei specchiarmi dentro gli occhi tuoi, come dici che fai nei miei. Da tanto ed io non l'ho notato mai, ma oggi vorrei fermarmi dalle parti tue e parlare un po' di quello che non ho saputo mai di te, di me. Percepire il tuo sapore, la tua pelle, il tuo calore è dentro me. Sai, mi sento stupido, mi sembra tutto un po' irreale. Sei sicura, è proprio me che vuoi, o ancora non lo sai. Ma stanotte tieni sveglia dentro al petto la tua voglia di sfiorare le mie ciglia. Sono qua, io sono qua, sotto il cielo che ci veglia. Se il mio mondo ti somiglia, una nuova meraviglia nascerà, nascerà, nascerà. Questo vorrei, vorrei capire come mai tu cerchi me. Da tanto ed io non ti ho cercata mai, ma ora ci sei. E chi l'avrebbe detto mai? Sarà banale, forse un po', ma il dubbio è che non so. Allora come fare a non smarrire il tuo sapore, la tua pelle e il tuo calore è dentro me. Sai, mi sento stupido, mi sembra tutto un po' irreale. Sei sicura, è proprio me che vuoi, o ancora non lo sai. Stanotte tieni sveglia dentro al petto la tua voglia di sfiorare le mie ciglia. Sono qua, io sono qua, sotto il cielo che ci veglia. Se il mio mondo ti somiglia, una nuova meraviglia nascerà, nascerà. Se ogni giorno terrai sveglia dentro al petto quella voglia di bussare alla mia soglia, sarò qua, io sarò qua. Se il tuo mondo mi somiglia e se non è un fuoco di paglia, una nuova meraviglia nascerà, si brucerà.